Oh, Madre, vedete, dolore, vedete. hoc accetat matrona, et sit armorum Marti, ebrea bellona. Suavissima suplex, Non mihi, patrie meae.